298. Bue alla brace. Sarebbe il bœuf braisé dei francesi. Procuratevi un bel tocco di carne magra e frolla e, dato che sia del peso di grammi 500 senza osso, steccatelo con grammi 50 di lardone tagliato a lardelli grossi e lunghi un dito scarso, ma conditeli prima con sale e pepe. Fate un battuto con un quarto di cipolla di media grandezza, mezza carota e una costola di setano lunga un palmo. Tritatelo all'ingrosso con la lunetta e mettetelo al fuoco con grammi 30 di burro e sopra il medesimo il pezzo della carne legato e condito con sale e pepe. Quando il battuto sta per consumarsi, bagnatelo per due volte con un gocciolo d'acqua fredda. Consumata che sia e colorita la carne, versate due ramaiuoli di acqua calda, coprite la cazzaruola con foglio doppio di carta e fate bollire adagio finché la carne sia cotta. Allora passate il sugo, digrassatelo e rimettetelo al fuoco con un altro pezzetto di burro per dar maggior grazia alla carne all'intinto, col quale potrete tirare a sapore un contorno di erbaggi, come sarebbero spinaci, cavoli di Bruxelles, carote, finocchi, quello che più vi piace di questi.